L'altra Europa. Sono 8 minuti dopo le 12. Buon sabato da Federico Taddia in diretta dagli studi di Radio 24 con L'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale per raccontarvi storie, persone, possibilità e opportunità dall'Europa. Europa, insomma, che ci fa arrabbiare anche nella nostra quotidianità che poi viene narrata giorno per giorno da Radio 24, perché vi racconta l'Europa dal punto di vista dell'economia, della politica. Noi cerchiamo anche altri punti di vista, lo facciamo soprattutto raccontandovi storie. Le coordinate per seguirci anche virtualmente: euronetplus.eu, che è il portale di Euronet Plus, il network al quale apparteniamo, oppure chiocciola Euronet Plus R24 o ancora chiocciola Federico Taddia su Twitter e Facebook, con i nostri aggiornamenti minuto per minuto relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi viaggeremo molto, si parte dalla Turchia. Freedom, item, meet him, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat them, weed them smartphones, don't beat them. E si parte dalla Turchia con un collegamento complicato. Già ve l'anticipo se succederà qualcosa durante la diretta, perché ci stiamo collegando con una cittadina turca che si chiama Gaziantep, ai confini con la Siria, e lì c'è un ragazzo, uno studente italiano, si chiama Mattia Oseli, che sta svolgendo un periodo di servizio volontario europeo, lavorando a stretto contatto con i profughi siriani. Ciao Mattia, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Buongiorno, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Come stai? Qual è la situazione che stai vivendo? Da quanto sei lì? Io sono qui da 2 mesi grazie a questo progetto, e devo dire che è un progetto che mi interessa molto. Mm-hmm. E il fatto, la possibilità interessante è quella di stare a contatto con i rifugiati qui. E la situazione è davvero drastica, perché sì, in una città come Gaziantep, che fa 1,5 milioni di abitanti, si parla di 400,000 rifugiati siriani, di cui 200,000 sono bambini, per cui insomma potete immaginare. Tu sei laureato in relazioni internazionali e diritti umani a Padova, quindi sì, stai forse mettendo in pratica quello che hai letto sui libri nel tuo percorso di studi. Com'è la tua quotidianità? Di cosa ti occupi? Beh, qui l'associazione ci permette di lavorare in collaborazione con un ONG che è International Mercy Corps, dove facciamo delle lezioni con i bambini rifugiati, con i siriani, e facciamo dei giochi, attività ricreative, bambini, educazione infantile ai bambini. E la cosa che comunque qui i servizi un po' scarseggiano, perché gran parte di queste persone non hanno accesso ai servizi né sanitari né dell'educazione. Per cui, insomma, sì, il problema è un po' a livello di autorità di Ankara, perché le ONG sono sempre attive nel campo, però poi mancano le risposte della politica, come sempre. Sono persone che scappano o sono persone che vanno verso? Sono persone che scappano dalla guerra in cerca di un futuro migliore, però molto spesso questo futuro non gli è garantito e non ci sono risposte. Alcuni di loro sperano di tornare il più presto, altri invece si mettono in viaggio verso l'Europa, e con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti, insomma. E molti cercano di intraprendere la rotta verso Izmir, da cui partire verso la Grecia via mare, insomma, sono tutte le conseguenze, certo, che abbiamo visto. Mattia, la Turchia oggi cos'è? Ti senti in Europa lì? La Turchia è un paese dalle grandi contraddizioni, perché c'è questa forte spinta alla modernità, ma c'è comunque questa forte tendenza a un paese dittatoriale, diciamo, da un certo punto di vista, perché se pensiamo alla questione dei curdi, se pensiamo a come vengono trattati i rifugiati, non mi sento in un paese in cui i diritti umani sono davvero rispettati. E soprattutto per quanto riguarda la questione dei rifugiati, sì, l'Europa ha dato 3 miliardi di euro ad Ankara, però questi soldi come vengono gestiti? Cioè, alla fine di tutti i rifugiati, si parla di più di 2 milioni di rifugiati, l'80% vive fuori dai campi e queste persone non hanno nessun diritto, non hanno accesso ai servizi, per cui non credo la Turchia sia un paese affidabile per un certo tipo di contrattazione diplomatica. Quando terminerà il tuo periodo di volontariato? È terminato ieri. Ah, quindi sei proprio... rimani sì. Lì ancora o sei già... stai facendo, preparando le valigie? Sto tornando verso l'Italia. Sto tornando verso l'Italia e probabilmente tornerò, se c'è la possibilità di continuare il progetto, tornerò. Qual è l'immagine? C'è un'immagine che ti porti, che più di altre ti porti a casa con te? Beh, sicuramente è il sorriso di questi bambini che comunque, nonostante le condizioni, nonostante vivano in delle catapecchie, insomma, in cui ci sono stanze, un salotto, un'altra stanza in cui vivono 13 bambini e 4-5 adulti, il sorriso che queste persone hanno e l'accoglienza, l'ospitalità, l'umanità che ti trasmettono, nonostante tutto e nonostante le condizioni che abbiano vissuto, è davvero emozionante. E spero di poter continuare a dare il mio contributo a queste persone, spero soprattutto che le autorità o chi di dovere comunque riesca a intraprendere un percorso di soluzione per la Siria, perché davvero queste persone non hanno risposte. Si parla di una generazione di bambini tagliati fuori dal percorso di istruzione, molto spesso questi governi forse non lo considerano quando parlano di guerre, di interessi, di petrolio, però di fatto è così, questi bambini hanno bisogno di risposte. Grazie davvero Mattia, che complimenti insomma, per la tua attività, in bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze che come te continueranno invece il servizio lì con i bambini, sì. E non solo, con i rifugiati siriani in Turchia. Buon grazie. Sabato, grazie, ciao. Grazie a voi, buona giornata. Adesso noi ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Invito per delegati giovanili, congresso delle autorità locali e regionali. Hai tra i 16 e i 30 anni? Ti piacerebbe fare un'esperienza diretta delle attività del Consiglio d'Europa? Dal 22 al 24 marzo e dal 18 al 20 ottobre 2016 a Strasburgo si svolgeranno la 30ª e la 31ª sessione del Congresso delle autorità locali e regionali. In occasione di queste occorrenze è stato lanciato un bando speciale per delegati giovanili, il cui obiettivo è creare uno spazio per il dialogo tra i giovani partecipanti e i rappresentanti eletti regionali e locali e permettere ai primi di esprimere i loro punti di vista sui temi in discussione. I candidati dovranno avere una buona padronanza dell'inglese ed essere attivi all'interno di istituzioni o associazioni locali. Per informazioni sulle modalità di iscrizione, visita il sito eurodesk.it. Ma attenzione, le domande dovranno essere inviate entro il 5 febbraio 2016. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, ancora mobilità, ancora questo grande palco che si chiama Europa, che diventa possibilità di esperienza, di condivisione, di formazione. E c'è ovviamente un progetto che racchiude tutto questo, e sto parlando di Erasmus. Ora è diventato Erasmus Plus o Plus, qui ci sono appunto due correnti di pensiero che ogni volta che lo pronuncio si sfidano via social. E sono stati presentati a Bruxelles i dati dopo un anno, il primo bilancio dopo un anno del programma, e numeri importanti dove l'Italia tra l'altro offre uno spaccato molto interessante sia per quanto riguarda la partecipazione sia per quanto riguarda l'accoglienza e ancora per quello che è il dopo Erasmus, cioè ragazzi e ragazze che poi ricevono offerte di lavoro e possibilità di rimanere nelle nazioni, nelle realtà che hanno visitato durante il loro periodo di formazione. Per parlare di tutto questo c'è con noi Sara Pagliai, coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus o Plus Indire. Ciao Sara, ben ritrovata. Buongiorno, all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, è Plus o Plus intanto? Partiamo. Allora, io dico Plus perché ovviamente parlando in italiano lo pronuncio alla latina. Poi quando invece sono con i colleghi degli altri paesi che parlano inglese dico Erasmus Plus. Ma diciamo l'origine è quella latina. Va bene, insomma, qui abbiamo un po' giocato con i termini. Allora, una tappa importante, il primo anno, il primo bilancio, sì. Ci sono numeri che secondo te meglio di altri raccontano cos'è stato Erasmus in questi 12 sì, mesi? Erasmus è stato dal 2014 appunto al Plus, perché questo brand che veniva diciamo attribuito alle opportunità di mobilità per gli studenti diventa un unico programma insieme alla mobilità degli insegnanti delle scuole, degli alunni, ma anche al volontariato giovanile piuttosto che agli adulti di formazione. Quindi un investimento da parte dell'Unione Europea che appunto, come tu dicevi, fa un bilancio, e questo bilancio nel primo anno è molto positivo. È molto positivo soprattutto per il nostro paese, perché se in Europa si muovono 650.000 persone, 58.000 sono italiani, quindi un 10%. E questo dato è significativo se pensiamo che non partecipano soltanto i paesi dell'Unione Europea, ma che siamo in 33 paesi, quindi c'è la Turchia, ci sono i paesi dello spazio economico comune, cioè Norvegia, Islanda, Liechtenstein, e poi c'è anche la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, quindi un'Europa allargata, ecco. E sono più gli studenti che vanno verso, sono più gli studenti stranieri che vengono verso l'Italia? Com'è lo scambio? Il rapporto è molto positivo in entrambi i casi. L'Italia si posiziona dal terzo e quarto posto, diciamo, sia in uscita che in accoglienza per quanto riguarda l'università soprattutto. Devo dire che è significativo, diciamo, in accompagnamento a questo studio di dati è stato anche presentato uno studio di impatto dove le regioni del sud Europa, e l'Italia fa parte di questo, hanno dimostrato che il programma ha avuto un impatto sul futuro delle giovani generazioni, quindi dando realmente opportunità nuove di crescita e soprattutto di sviluppo anche professionale. Il 50% degli studenti italiani che ha fatto Erasmus, soprattutto che ha fatto Erasmus in un'impresa, perché anche questa è una bella novità introdotta da qualche anno, quindi non solo mobilità per studio ma mobilità tra università e impresa, ha trovato lavoro, e questo è significativo pensando che invece la media europea è del 30%. Vuol dire che gli italiani all'estero sanno farsi valere in qualche maniera, sono veramente i più bravi, tra i più bravi. Insomma, ecco. C'è una buona formazione di partenza e capacità di adattarsi sfruttare le potenzialità. Lo spirito di iniziativa, cioè questa competenza che non è soltanto appunto aprire un'impresa, ma spirito di iniziativa vuol dire avere un'apertura mentale, sapersela cavare, riuscire ad integrarsi in un contesto culturale diverso, anche superando degli ostacoli come possono essere le barriere linguistiche. Ecco, i nostri studenti Erasmus hanno dimostrato tutto ciò, e di questo siamo molto orgogliosi e molto felici. Erasmusplus.it, il sito ufficiale per conoscere tutte le attività, perché insomma, se l'Erasmus ha successo anche per grazie a tutta la struttura che c'è attorno, grazie all'Indira, grazie alle università, grazie agli stessi studenti che si mettono in gioco per raccontare quello che hanno fatto e aiutare sia chi deve partire, sia i ragazzi stranieri che arrivano e devono, devono essere di fatto accolti. Grazie davvero a Sara Pagliai, buon lavoro. Grazie, arrivederci, buon fine settimana. E noi andiamo a raccontare proprio una di queste storie dove l'Erasmus ha impattato, dove l'Erasmus ti ha cambiato la tua quotidianità, storia che è stata raccontata un paio di giorni fa dal Corriere della Sera, e diamo il benvenuto a Francesca Spanò. Ciao Francesca. Ciao Federico, buongiorno. Ti ho perso nel tuo viaggiare, in questo momento dove ti trovi? In questo momento mi trovo ad Amsterdam. Perfetto. Viaggio tanto, mi muovo tanto. Allora, dai, faccio un riassunto della tua linea della vita. Tu ti sei... vai. Io mi sono laureata in comunicazione a Pavia a maggio dell'anno scorso, dove ho fatto una specialistica appunto in comunicazione professionale multimediale, venendo da Lettere a Palermo. Sì. Subito dopo la laurea sono partita col programma appunto Erasmus Plus e sono approdata qui in Olanda, anche consigliata dalla dottoressa Elena Fontana, che è la responsabile mobilità del mio appunto corso di laurea. E ho iniziato questa esperienza radiofonica e contemporaneamente un'esperienza editoriale nel primo magazine di informazione in italiano dell'Olanda. E poi, insomma, una cosa ha tirato l'altra e sono rimasta qui, sono ancora qui. E insomma, il mio progetto è quello di fare ancora un po' di esperienza ad Amsterdam. Mm-hmm. Mi rivedo poi, diciamo, in tutto quello che ha detto la dottoressa Pagliari per quello che riguarda un po' il rischiare, il muoversi, il confrontarsi, il mettersi in gioco, e credo che l'Erasmus sia un'opportunità veramente da cogliere per tutti i giovani italiani. Ma è questa cosa degli italiani più bravi degli altri studenti, l'hai vissuta sulla tua pelle? Ma io ho la sensazione che noi italiani comunque usciamo da un tipo di università che sia di eccellenza o comunque diverso rispetto al sistema europeo, cioè il fatto di confrontarci continuamente con un sistema molto più rigido e severo per certi versi, fare anche gli esami orali o altre caratteristiche che le università europee non hanno, probabilmente ci danno una, credo, una capacità critica e anche di flessibilità in più. Nella mia esperienza appunto l'ho trovata positiva, poi qua ho avuto tanti feedback positivi, tante persone che mi scrivono, tante persone che mi dicono complimenti per il suo lavoro. Conosco altre persone che appunto venendo dall'Italia sono partite anche in Erasmus Plus e sono rimaste poi a lavorare per aziende qua in Olanda. Quindi la mia percezione è quella che la nostra formazione sia molto valida. Io poi non posso che, diciamo, essere contenta della mia esperienza, perché l'Università di Pavia mi ha supportato proprio da tutti i punti di vista, quindi... Per me è assolutamente positivo, sì. La tua esperienza l'hai vissuta appunto esperienza professionale da redattrice a Radio Pizza, radiopizza.net. Che cos'è? Radio Pizza è una radio online, appunto una piattaforma di web radio che è nata qualche anno fa ed è presente in 6 paesi. Sostanzialmente sì. Si propone di informare e intrattenere gli italiani all'estero, quindi nasce un po' per fare da grande casa dell'Europa gli italiani appunto presenti nei vari paesi, ad esempio Belgio, Svizzera, Inghilterra, appunto Olanda. Ogni piattaforma è indipendente, però ovviamente interrelata, quindi si comunica tanto tra i vari paesi europei. Poi non è bello il fatto che quando ci si sposta di paese in paese le persone vanno a lavorare nelle radio dei paesi dove si spostano, quindi è molto bello. Cioè c'è chi passa dall'Inghilterra al Belgio all'Olanda, quindi è un network in continuo ricircolo. Francesca, da Palermo ad Amsterdam è la stessa Europa? No, non è assolutamente la stessa Europa. Io dico sempre che avevo già fatto un mini Erasmus interno andando a studiare a Pavia, perché già la percezione di una mentalità differente si sente, e qua il salto è ancora più grosso. C'è molta più civiltà per certi versi, molta meno per altri, però è un sistema più, credo, libero, più flessibile, che ti permette soprattutto di muoverti di più e di confrontarti di più. Io nella mia realtà di Palermo questo tipo di mobilità non la vivevo molto più qua. Grazie per la Francesca Spanò, in bocca al lupo per i tuoi progetti, anzi tienici aggiornati, insomma, se, visto che insomma, mi sembra che non ti manca l'idea, la voglia e lo spirito innovativo, quindi sicuramente inventerai qualcosa di bello e saremo qui pronti grazie a raccontarlo. Mille, ciao, ciao, ciao, ciao, buona giornata. Ciao, arrivederci, buona giornata. Nero Postit, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Stage al Parlamento Europeo. Sei alla ricerca di un'esperienza lavorativa internazionale? Ogni anno il Parlamento Europeo offre la possibilità a 600 giovani di effettuare un periodo formativo di 5 mesi nella propria sede di Bruxelles. Il prossimo turno di tirocini andrà dal 1 ottobre 2016 al 28 febbraio 2017, con periodo di domanda e selezione tra il 15 marzo e il 15 maggio 2016. Gli stage prevedono una retribuzione di 1.213 euro al mese e la copertura delle spese di viaggio di andata e ritorno. I candidati devono essere cittadini europei maggiori di 18 anni e avere una conoscenza approfondita di almeno una lingua ufficiale dell'Unione. Sono disponibili tirocini in diversi campi, tutti consultabili nella sezione Lavorare al Parlamento del sito europarl.europa.eu. L'altra Europa. This is your traveling song, and I hope it sees you well through train rides and hotels. This is your traveling song, and on the window of the train, with your finger right in my name. Well, I could sell my watch and buy a ticket, but my dear, I feel I wouldn't be. So this is your traveling song, my love, I hope you find everything you need. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @ Federico Taddia su Twitter e Facebook per poter trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, per contattarmi anche direttamente, tutto ciò anche sul nostro sito radio24.it nelle pagine dell'altra Europa per riascoltare il podcast, ritrovare tutti gli elementi relativi per esempio ai nostri Europostit e infine la mail per entrare in contatto diretto con la redazione, l'altra Europa, @radio24.it. Continuiamo a parlare di cultura, continuiamo a parlare di progetti Erasmus Plus, quindi progetti che mettono insieme realtà diverse di questa Europa, anche su tematiche astruse, nel senso che non ti aspetti che su quella tematica si possa, per esempio, coagulare scuole diverse, realtà diverse, nazioni diverse. Per esempio, tutto ciò è successo in questi giorni con uno scambio che ha visto protagonista il liceo scientifico Rossetti di San Benedetto del Tronto, un progetto, un partenariato strategico tra scuole, dove il cuore era analizzare e studiare il rapporto tra matematica ed arte. Di tutto ciò ne parliamo con la professoressa Anna Nardecchi, coordinatrice del progetto e prof di inglese. Buongiorno prof. Buongiorno a lei. Buongiorno. E poi c'è anche Chiara Malavolta, che è una studentessa che sta partecipando al programma. Ciao Chiara. Ciao, buongiorno. Ti abbiamo svegliata, no? No. Perfetto. Allora, professoressa, ci racconti che la matematica, l'arte e l'Europa, che filo conduttore avete trovato? È un filo bellissimo, perché il progetto in realtà si chiama La matematica intorno a noi. Sì. Vede protagonisti in collaborazione 8 paesi europei, e nello scegliere diciamo il topic di collegamento più consono, più adatto per ciascuna nazione, naturalmente per l'Italia è stata scelta l'arte. È stato un percorso interessantissimo, prima di tutto per noi, perché di matematica nell'arte ce n'è tantissima e i ragazzi nel liceo scientifico naturalmente studiano sia storia dell'arte che matematica, ma forse anche loro non avevano avuto il tempo, l'occasione per cogliere questo nesso. E quindi questa è stata un'occasione molto preziosa per noi, ma anche per i partner che hanno collaborato insieme con noi con questa esperienza. Esatto, perché sette gli istituti superiori di altrettanti paesi europei, Romania, sì. Polonia, Danimarca, Ungheria, Grecia, Portogallo e Lituania, e si è appena concluso da qualche ora infatti, sì. È il vostro turno di ospitalità, 21 sì. studenti e 13 insegnanti che per una settimana sono stati a San Benedetto del Tronto. Chiara, tu ospitavi qualche collega? Sì, io ospitavo una ragazzina ungherese, uh-huh. più piccola di me, che è stata dolcissima in questi giorni e abbiamo creato un grande legame di amicizia. Uh-huh. Perché insomma appunto c'è la matematica, ma c'è poi anche la relazione, la contaminazione culturale al centro dei progetti di mobilità Erasmus. Tu avevi partecipato anche allo scambio all'estero? No, questa è la prima esperienza per me. Uh-huh. E al di là della dolcezza, al di là appunto di avere questa creatura in casa, cosa ti ha portato dal punto di vista personale? Beh, sicuramente il miglioramento della comunicazione, uh-huh. L'uso spigliato della lingua inglese, e creare legami appunto con ragazzi stranieri, cercare di accoglierli nel miglior modo possibile e conoscere nuove culture, nuovi metodi di studio, conoscere le loro abitudini, le loro scuole, i loro modi di dire, i modi di studiare. Mm-hmm. È stata una grandissima esperienza. Sei stata particolarmente curiosa? Nel senso, hai fatto tante domande? L'hai vissuta in pieno questa esperienza? Sì, ho fatto moltissime domande sia a lei che agli altri ragazzi stranieri. Professoressa, appunto, al di là del lavoro sulla matematica, credo che le parole di Chiara abbiano ben spiegato quello che è il valore di un'esperienza di questo tipo. Beh, direi che visto il mondo che ci circonda e visto i rischi di ritorni al passato così drammatici, invece queste sono boccate d'aria di democrazia, di collaborazione, di tolleranza, di miglioramento personale e direi culturale veramente eccezionale. Quindi i ragazzi, devo dire, hanno vissuto appieno sulla propria pelle questa sensazione meravigliosa che veramente il mondo è uno, che in ogni cultura c'è un patrimonio altissimo e da cui apprendere e con cui condividere, no, esperienze ed emozioni, perché poi alla fine questi ragazzi veramente si sono voluti un gran bene. Ieri sera piangevano tutti quando erano in partenza, quindi devo dire che è stata un'esperienza sia dal punto di vista personale che culturale molto molto alta. Dai, di solito la matematica che fa piangere, invece avete fatto... guardi, questo è veramente, adesso che lei sottolinea... È un pregiudizio, lo so, era una battuta facile, ma... No, ma lo scoprire che veramente dall'antichità al Rinascimento, ma al giorno d'oggi, ecco, la matematica è un mezzo proprio di interpretazione, per esempio, del mondo esterno, no? Perché immaginare come collocare una statua, oppure come costruire un'architettura, o come proporzionare, no, con canoni di bellezza, c'è bisogno di questo rigore, no, che ci sembra così astruso, così distante dalla realtà, invece che ci circonda e ci serve, ci è utile ed è veramente anche piacevole riuscire a gestire. Assolutamente. Quindi questa è una cosa veramente che penso abbia un po' abbassato, è anche un obiettivo fondamentale della ricerca, cioè abbassare l'ansia e alzare invece la curiosità e la, diciamo, l'approccio laboratoriale, no, del, dello studio alla matematica. Liceorosetti.gov.it, questo è il sito se volete saperne di più sulla matematica intorno a noi. Grazie davvero, professoressa. Grazie, Chiara. Grazie a lei. Buon sabato. Grazie a lei. Grazie, salve. Arrivederci. Europost-it. International Animation Festival, concorso per film animati. A tutti i registi e videomaker specializzati in cinema d'animazione. A Žilina, in Slovacchia, dal 29 giugno al 3 luglio 2006, torna Lancia International Animation Festival. Oltre a diverse proiezioni, mostre, eventi, anteprime e retrospettive, il festival ospiterà anche un concorso internazionale valutato dalla Film Europe Media Company. Sono invitati a inviare la propria candidatura tutti coloro che abbiano completato un cortometraggio animato sotto i 30 minuti dopo il 1 gennaio 2014. L'opera dovrà essere inviata alla commissione in formato DVD o Blu-ray entro il 15 marzo 2016. Per informazioni e modalità di iscrizione, consultate il sito del festival festanca.sk/2016. Una settimana per celebrare l'imprenditorialità. Sto parlando della Startup Europe Week dall'1 al 5 febbraio, iniziativa organizzata con il supporto della Commissione Europea di Startup Europe e il Comitato delle Regioni. Di cosa si tratta? Lo chiediamo a Tiziana Lombardo, una delle coordinatrici e cofondatrici di Startup Europe Week. Ciao Tiziana, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico, grazie. Grazie a te. Allora, dall'1 al 5 febbraio un ricchissimo calendario di eventi. Qual è la missione, appunto, di queste giornate? La missione di queste giornate è quella di far vedere cosa c'è nei vari territori dell'Unione Europea rispetto a finanziamenti, agevolazioni, fondi per l'imprenditoria e per le start-up offerti direttamente da quelli che sono gli attori del territorio, per cui le regioni in primis, ma anche camere di commercio, eccetera. Questo perché è necessario avere una fotografia anche di quello che avviene dal basso, in quanto l'Unione Europea con l'iniziativa Startup Europe sta cercando di creare un sistema che favorisca l'imprenditoria, il mondo delle start-up anche in Europa, però ovviamente dall'alto. Per cui noi abbiamo deciso di fare questa iniziativa proprio perché volevamo coinvolgere gli attori dal basso. StartEuropeWeek.eu, questo è il portale con la mappa, la mappatura di tutti gli eventi organizzati. Tiziana, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo il traffico, poi torniamo da te per capire chi sono soprattutto i destinatari di questa settimana. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con Tiziana Lombardo. E Tiziana, stavamo dicendo appunto questa settimana in cui proprio è una grande vetrina di quelle che sono le opportunità e le potenzialità legate alle start-up. Voi a chi pensate? Qual è il vostro target privilegiato? Ma ovviamente il nostro target privilegiato sono tutti gli imprenditori. In genere si associano le start-up soltanto ai giovani, esatto, alle nuove leve, ma in realtà chiunque sia interessato a creare dei nuovi business, a delle idee imprenditoriali, è il nostro target sostanzialmente. Quindi ugualmente il nostro target secondario, anche se fa parte poi di quelli che sono gli speaker e i promotori, volendo, delle varie iniziative in tutta Europa, sono anche le regioni, perché averle coinvolte in maniera così massiva comunque per noi è interessante affinché loro stessi abbiano poi, no, quella che è la fotografia dell'interesse, della necessità che il proprio territorio ha di attivare tutta una serie di non aiuti, ma proprio strategie per l'imprenditoria, perché affinché poi l'Europa tutta possa possa progredire dal punto di vista economico e imprenditoriale. Mm-hmm. Perché comunque alla fine è nel territorio che la startup si sviluppa, cresce e trova di fatto anche il suo indotto. È vero che esiste un territorio virtuale grazie alla rete, però esiste anche un territorio reale dove comunque mettere radici. Sì, esatto, il territorio è l'humus dove si devono piantare tutti questi semi, per cui è fondamentale che sia proprio il territorio e le autorità territoriali le prime a cui ci si rivolge per creare nuove aziende, nuove idee. Esatto, nuove creatività, nuove connessioni. Startupweek.eu, vi ricordo ancora il sito ufficiale per conoscere tutto il programma di queste 5 giornate in tutta Europa, oltre 200 città coinvolte, tantissimi eventi, tantissime possibilità per capire e capirci di più. Grazie Tiziana, buon lavoro. Grazie a te altrettanto, ciao. Chiudiamo questa puntata dove abbiamo viaggiato tanto, viaggiando ancora, lo facciamo con un collega giornalista, autore di un libro importante, si intitola Il bagaglio, migranti minori non accompagnati, il fenomeno in Italia, i numeri, le storie, edito da Albeggi Edizioni. Diamo il benvenuto a Luca Attanasio. Ciao Luca. Ciao, buongiorno, grazie per l'invito. Un lavoro importante, un lavoro di ricerca di un fenomeno non abbastanza conosciuto. E definiamolo intanto, chi sono i migranti minori non accompagnati? Sì, e dunque con questa definizione si intende ragazzini che fuggono o partono dai propri paesi, dai propri contesti, senza il conforto, la protezione di un genitore, un parente, neanche un adulto, al massimo di qualche coetaneo. Un fenomeno in deciso aumento purtroppo nel mondo, in Europa sono tantissimi, ma per esempio il fenomeno possiamo definirlo planetario, perché anche in America c'è questa spaventosa crescita di questa questione. E nel 2014 abbiamo raggiunto il picco, per quanto riguarda l'Italia evidentemente, di circa 15.000 arrivi di questo tipo di ragazzini. Quando dico minorenni intendo in gran parte tra i 16 e i 17 anni, ma purtroppo va denunciato il fatto che sta aumentando anche il numero di bambini al di sotto dei 10 anni. Veramente cominciano questo progetto, questo percorso migratorio che, come immaginerete, prevede dei passaggi crudeli, drammatici, in mano di trafficanti. Assolutamente. Quali sono i possibili finali di queste storie? Tu ne hai raccontate tante. Ci sono passaggi comuni, ci sono fili comuni, sì, appunto, nelle loro trame. Però quali sono le possibilità che si trovano davanti questi minorenni? Certo, intanto va fatta una grossa differenziazione, anzi tante differenziazioni a seconda dei motivi per cui vanno via e delle aree di provenienza. Sì. Ci sono alcuni ragazzini che vengono letteralmente venduti dalle proprie famiglie, altri che vengono fortemente spinti perché la famiglia non ce la fa più e investe diciamo nell'elemento del nucleo che ha più possibilità di penetrare l'Europa, perché come immaginerete è sempre più difficile arrivare in Europa e quindi per il principio di inespellibilità i minori sono quelli che hanno più possibilità di entrarci. E poi ci sono quelli che invece scappano da conflitti e persecuzioni, è il caso dei ragazzini eritrei o gambiani, che sono in spaventoso aumento. Il Gambia è il paese più piccolo dell'Africa, ha 2 milioni scarsi di abitanti, eppure dalle stime non ufficiali sembra che negli ultimi anni 300.000 persone stiano scappando da questa dittatura feroce del primo ministro e presidente Jammeh. Loro scappano d'accordo con la propria famiglia, mettono su un progetto per salvarsi la pelle o per evitare il servizio militare. Ce ne sono altri che appunto decidono insieme con la famiglia di mettere su questo progetto per aiutare tutto il contesto, quindi le differenziazioni sono tantissime. Una volta arrivati in Italia c'è un sistema di accoglienza che ancora purtroppo fa fatica ad essere efficiente, viaggia un po' sull'emergenza, ma l'emergenza, se vi ricordate, è all'indomani delle primavere arabe, quindi dovrebbe essere già un po' diciamo così metabolizzata, oleata, esatto. Ecco, sì, mm-hmm. Sì. Il problema è che chiaramente ci sono tante criticità, cioè, per esempio una delle maggiori è il fenomeno degli irreperibili, cioè quei ragazzini che arrivati qui vengono identificati, però poi scappano. E nella migliore delle ipotesi scappano per raggiungere familiari, parenti, contesti nel nord Europa. Nella peggiore sono già stati intercettati dalle mafie e mafiette locali che in tanti casi li seguono dal primo passaggio, cioè da quando, non essendoci un metodo legale per arrivare in Europa, si affidano ai trafficanti nel loro paesello, nel loro villaggio o nella loro cittadina. Certo, ci tengo a sottolineare però che il libro di Luca, oltre a essere una fotografia reale, anche tragica, però ci sono anche storie a lieto fine, o meglio, ci sono anche esempi virtuosi di quello che si potrebbe fare. Non sono soluzioni, però sono buone pratiche che potrebbero essere replicate proprio a dimostrazione che le soluzioni con l'impegno, con buone politiche, a volte anche con creatività, si possono comunque trovare e sperimentare. Il bagaglio migranti minori non accompagnati, il fenomeno in Italia, i numeri e le storie, lo ricordo ancora, edito da Albeggi Edizioni, questo il bel libro scritto da Luca Attanasio. Grazie Luca, complimenti e buon lavoro. Grazie a voi e buon weekend. E con questo libro chiudiamo questa puntata. Radio24.it per poter riascoltare il podcast e trovare tutti i link e le indicazioni dei nostri Euro Post-it, oppure @ Federico Taddia, Twitter e Facebook. Un grazie a tutta la squadra, Roberta Frisoni e Claudia Schiattone oggi in assistenza, Miriam Lucchetti e Silvia Righini invece con me hanno scritto la puntata. Ancora grazie, l'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Ciao!